Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, domenica di auguri, auguri a Radio 24 che ha compiuto 18 anni, è diventata maggiorenne, e un in bocca al lupo a Milano che è entrata nella short list delle capitali europee dove potrebbe arrivare l'EMA. Che cos'è l'EMA? Qualcuno si ricorderà, ne abbiamo già parlato, è l'Agenzia Europea del Farmaco. E perché è così importante? Perché darebbe a Milano un ulteriore respiro internazionale. Pensate, arriverebbero 2.000 famiglie, manager e diciamo ultra sofisticati ricercatori, tutto il mondo diciamo scientifico che corre intorno all'Agenzia del Farmaco, e sarebbe sicuramente un grande impulso alla crescita economica della città. E a noi interessa la crescita economica di una città come Milano, perché Milano è già la città con il record di donne che lavorano, un tasso pari al 65% a fronte di una media europea del 60% e italiana del 47%. Quindi diciamo, mettiamocela tutta. E un ritorno a Milano o vicino, diciamo, a Bergamo, è quello che riguarda anche la nostra Sunday Girl di questa settimana, che noi abbiamo beccato in treno sulla tratta proprio Roma-Milano. Sarà con noi la Sunday Girl di questa domenica, Cristina Parodi. Ma prima della nostra Sunday Girl è il momento dell'agente provocatore. Benvenuto a Nessuna è perfetta, professor Maurizio Ferrera, editorialista del Corriere della Sera, docente di scienze politiche all'Università degli Studi di Milano e autore di un saggio che ha precorso i tempi, Il fattore D, perché il lavoro delle donne farà crescere l'Italia. Un saggio Mondadori che torna molto utile in questi giorni in cui parliamo di Milano come città italiana e non solo, europea, con alto tasso di presenza femminile nel mondo del lavoro e di conseguenza alto tasso di crescita. Professore, c'è una relazione, lei sostiene da tempo, tra la crescita dell'occupazione femminile e la crescita di un'economia locale. Milano è stata particolarmente capace nello sfruttare il fattore donna, o è casuale? Beh, diciamo che Milano è stato il primo contesto nel quale quelle dinamiche, come dire, tipicamente associate all'occupazione femminile hanno cominciato a dare i loro frutti, e cioè l'attrazione dentro un mercato del lavoro dinamico e proiettato verso l'estero, verso il futuro, di un capitale umano, quello delle donne, oggi ormai pari se non superiore, sicuramente in certi settori, a quello degli uomini. Quindi il primo elemento che citerei è questo. Il secondo è che quante più donne entrano nel mercato del lavoro, quanto più si crea una domanda di servizi, servizi di conciliazione, servizi di sostegno alle esigenze familiari, che anche questo è il caso appunto di Milano, nel settore della ricreazione, nel settore della cura dei figli, nel settore dell'assistenza agli anziani, ma più in generale anche, come dire, chiamiamoli servizi di facilitazione dell'attività quotidiana. E il caso di Milano, con il suo massiccio incremento di attività proprio in questi settori, testimonia come il motore dell'occupazione femminile non porti solo benefici generali, ma anche benefici specifici in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, in quei settori che sostengono giusto appunto l'attività lavorativa di entrambi i partner in una coppia. Certo, proviamo a sognare, professor Ferrera. Immaginiamo che l'EMA, l'Agenzia del Farmaco Europea, trovi sede a Milano, cosa che tutti ci auguriamo, non sarà facile, ma bisogna combattere e portare possibilmente a casa il risultato. Che effetti potrebbe avere un trasferimento di manager internazionali sull'economia della città e sull'occupazione femminile? Beh, innanzitutto naturalmente darebbe impulso alle dinamiche che ho appena menzionato, perché verrebbero 1.000, forse 2.000 famiglie nelle quali tipicamente entrambi i partner lavorano e che quindi avrebbero bisogno di tutta una serie di servizi che a Milano più di altre città italiane sono presenti, ma non in misura sufficiente. Però direi soprattutto uno stimolo culturale, perché vede, è vero che Milano è la punta di diamante del fattore D in Italia, ma adesso non allarghiamoci troppo, si direbbe, sì. Non è che siamo nel trappello di punta in Europa. In Svezia, a Stoccolma, nella regione, sì, di Stoccolma, l'occupazione femminile è di circa 15 punti superiore a quella di Milano. Quando noi diciamo che Milano ha livelli di occupazione femminile nordici, ci dimentichiamo che anche i valori nordici sono in realtà delle medie e quindi tengono conto di aree, di contesti territoriali diversi, certo. Femminile anche lì è bassa, per cui Milano non si deve paragonare alla Svezia, si deve paragonare a Stoccolma, si deve paragonare a Berlino, si deve paragonare ad Amsterdam, e lì i dati segnalano che le cose sono più avanzate. Queste persone dell'EMA, le donne ma anche gli uomini, insomma i dipendenti, verrebbero a Milano con delle forti aspettative di trovare quell'insieme di servizi, per esempio di asili. Quindi ci sarebbe per esempio una buona richiesta di insegnanti che parlano più lingue di asili, di scuole anche private, che forniscano un servizio per esempio di tempo pieno, tante cose che si possono immaginare, anche la sanità. Tante cose che si possono immaginare che possono potenziare quello che è già il forte potenziale della città. E anche poi, come dicevo, un effetto di uno stimolo culturale, perché i dipendenti di un'agenzia come EMA sono sicuramente molto avanzati anche in termini di standard di parità, naturalmente parità di retribuzione, parità di opportunità, parità di accesso ai vertici delle carriere, e anche magari buoni esempi di collaborazione domestica, no? Senta, professore Ferrera, io in chiusura le volevo chiedere, so che ci vorrebbero ore, però le chiedo invece una risposta sintetica. Abbiamo parlato di Milano, ma che cosa non funziona nel resto d'Italia? Perché l'occupazione femminile nel resto d'Italia non ha quei tassi che abbiamo citato a proposito di Milano. Sì, come ha detto giustamente Dario Di Vico, la struttura economica di Milano ha facilitato questo accesso delle donne al mercato del lavoro, perché una città che, pur senza rinunciare alla vocazione industriale, manifatturiera, eccetera, si è molto sviluppata nel settore dei servizi. Parliamo di servizi avanzati, sì, quindi di terziario avanzato. Ecco, in altre città italiane, anche del nord, questo non è avvenuto, pensiamo solo a Torino, a Genova, sì, mentre nel mezzogiorno purtroppo continuano a riprodursi molti circoli viziosi del sottosviluppo, e quindi ahimè anche per l'occupazione femminile queste sono dinamiche che sono molto negative. Molte donne del sud, le più giovani e le più istruite, anche vanno via, certo, e questo è un depauperamento che dovrebbe preoccupare per primi, io credo, i politici e gli imprenditori locali, non crede? Tutti gli attori della società civile, comprese le fondazioni, le banche, le camere di commercio, perché se non si trova il modo di trattenere nel sud i talenti, si creano due effetti perversi. Il primo è che si depaupera di capitale umano queste regioni. Il secondo è che, come dire, non si creano nemmeno gli incentivi a che le cose cambino, perché sono proprio gli uomini, ma soprattutto le donne più giovani e più istruite, che se rimangono esprimono una domanda forte, sia economica che sociale e politica, di cambiamento. Certo, per concludere, non arriverebbe nessuna ipotesi di agenzia internazionale a Milano se Milano non offrisse alle donne e agli uomini internazionali che potrebbero trasferirsi lì, come dire, degli aspetti di vita familiare, sociale e degli stimoli professionali che invece offre. Quindi è chiaro che i dipendenti di ENA che hanno votato in quale delle città candidate vorrebbero trasferirsi hanno scelto Barcellona, Amsterdam e Vienna prima di Milano. Io la ringrazio e le auguro buona domenica. Grazie al professor Maurizio Ferrera. Grazie. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Nessuna è perfetta. Eccoci, e questo lo sapete, è il momento della nostra Sunday Girl. Benvenuta, buona domenica, anzi bentornata Cristina Parodi, giornalista, conduttrice TV, dopo la vita in diretta che ci ha fatto... ci ha fatto compagnia per tutte le settimane. Beh, adesso torna, anche lei diventa una donna della domenica. Cristina, non sai quanto ti capisca, perché Nessuna è perfetta va in onda la domenica e poi io faccio anche la diretta TV a Sky, quindi le tue domeniche d'ora in poi saranno infernali. L'hai messo in conto? Del conforto, cara Maria, è per me un vero trauma, perché invece io ho sempre lavorato sul quotidiano, ma sempre avendo sabato e domenica come la mia isola felice, tranquilla, torno a casa, in famiglia, eccetera. Quindi quest'anno rivoluziono la mia vita avendo occupati di fine settimana e libero una parte della settimana invece in mezzo, quindi vediamo. Ci sono state un sacco di malignità, no, su questo cambio, una delle quali è che tu hai richiesto per l'appunto di lavorare la domenica, perché così per il resto della settimana puoi restare a Bergamo. Cioè... non l'ho francamente neanche letta, sì. Ci sta sempre, io non voglio neanche commentarle. Guarda, sono stata felicissima che mi abbiano proposto questa avventura nella domenica, perché dopo 3 anni di vita in diretta, di quotidiano, 600 puntate, insomma, ero anche pronta a cambiare, a fare qualcosa di nuovo, e quindi sono felicissima di provare a misurarmi con questo programma storico. È una bella responsabilità, mamma mia, perché c'è stato prima di te Pippo Baudo, poi l'arena di Giletti con tutte le polemiche che il suo passaggio alla 7 ha suscitato. Vi siete sentiti? Siete tutti e due della stessa regione, peraltro, vi conoscete da tempo. Ma siamo amicissimi e insomma sì, l'ho sentito, ovviamente mi è dispiaciuto molto, insomma, per lui, soprattutto per il fatto che ci sia rimasto male per questa decisione, e ci sono rimasta male pure io, perché quando mi hanno chiesto di farla domenica io ero convinta che ci fosse sempre Giletti prima, per cui già vedevo un meraviglioso tandem tra me e Massimo, tandem piemontese. Esatto, partendo dai grandi ascolti che mi avrebbe lasciato l'arena. Quando poi ho realizzato che l'arena non ci sarebbe stata, ecco, la responsabilità della domenica è diventata anche un po' più pesante, ecco, quindi mi sono presa anche un po' di un po' più di paura, per cui niente, ci stiamo lavorando tanto da diversi mesi e adesso siamo al rush finale. Come sarà la domenica di Cristina Parodi? Sarà un po' una domenica più femminile? Intanto c'è anche tua sorella Benedetta, quindi è già una domenica, diciamo, abbastanza familiare, un messaggio alle famiglie. Sì, vorremmo che fosse una domenica familiare, ecco, questo sicuramente. La linea editoriale che ci è stata data, che ci è stata chiesta, è proprio di aprire lo studio come se fosse una casa alle persone che ci ascoltano e di cercare di passare la domenica pomeriggio con loro, con se possibile un sorriso, un intrattenimento fatto bene e un'attenzione all'attualità. Il che vuol dire che insomma non ci sarà forza la necessità di seguire la cronaca nera, ma ci saranno gli approfondimenti dei fatti che abbiamo visto. Inviterai dei politici? No, non ci sarà politica. Non ci sarà politica, ci sarà invece musica, ci sarà divertimento, ci sarà un gruppo di lavoro molto affiatato e un clima assolutamente familiare con ecco, speriamo argomenti interessanti, piacevoli e intelligenti, con ospiti importanti che speriamo possano essere insomma, graditi e che ci raccontino delle cose un po' speciali. La tua competitor di Canale 5, avete uno stile diverso, ma in che cosa si caratterizzerà proprio in maniera totalmente diversa la tua domenica da quella della D'Urso? La domenica di Barbara è una domenica molto a tinte forti, perché il suo stile è quello, è proprio il suo, suo modo di fare televisione è molto diverso dal mio, quindi insomma, per forza sono due programmi che saranno molto, molto diversi. Noi non ci addentreremo nella cronaca né abbiamo delle grandi discussioni o litigi in studio, cerchiamo di fare le cose che mi piace fare in televisione con un po' più di leggerezza, magari anche con invitando persone interessanti ma magari meno conosciute. Non ti ci vedo a piangere in diretta, ecco. No, i pianti non ci sono, no, non ci sarà, questo lo garantisco. Beh, del resto non credo che ti abbia mai visto piangere. Commossa forse sì, ma piangere no. No, beh, ecco, sì, commossa, emozionata da interviste particolarmente toccanti, sì, a volte mi è successo, però non oltre. L'autocontrollo sabaudo? Beh, diciamo che tanti anni di telegiornale ti aiutano anche a comunque essere in grado di prendere un po' di distanze dalle notizie. Comunque continui a fare la pendolare e questa volta sì, Roma-Bergamo. Sì. Ma ci sarà anche una campagna elettorale in famiglia, perché tuo marito Giorgio Gori si candida governatore della Lombardia. Come pensi di fare tutte e due le cose? Cioè dare una mano in campagna elettorale al candidato Gori e gestire insomma una responsabilità importante come quella della domenica di Rai 1? Io ci provo a fare tutto, però non so se ce la faccio. Ecco, io ci metto l'anima, il cuore e tutta la mia forza di volontà, però ho anche tre figli, insomma, quindi cerchiamo di fare tutto al meglio, però insomma non posso essere perfetta, quello non lo sarò mai. E quindi certo, sei nessuna è perfetta, è il titolo della nostra puntata, ti ci riconosci? Perfetto, io men che meno, assolutamente. Quindi so già che adesso dal 15 ottobre, quando inizieremo, insomma sarà un grande avanti e indietro. Però devo dire, Maria, che io per la prima volta mi sono resa conto che faccio un settimanale, non un quotidiano. Quindi comunque l'idea di andare in onda una volta sola alla settimana e non tutti i giorni, secondo me potrebbe permettermi di avere qualche giorno in più libero, e quindi mi farebbe molto piacere riuscire quantomeno, se non ad aiutare, ad essere comunque vicino a Giorgio, che insomma sta quest'anno veramente ha una sfida molto molto difficile. Com'è la politica vista non più da un lato professionale, ma dal lato della moglie di un politico? È un, visto dal mio punto di vista è un gorgo mostruoso nel quale si è buttato e che mi ha rapito il marito, cioè nel senso che veramente quando incominci a occuparti di politica come fa lui con grande serietà e passione, fai fatica ad avere del tempo libero, ecco, il tempo libero non c'è più, quindi è questa. Però insomma io non sono mai stata né una giornalista politica né particolarmente attratta dalla politica. Da quando ce l'ho anche in casa ovviamente la seguo di più e insomma, mi rendo conto che se uno vuol farla bene effettivamente si deve dedicare a quello e nient'altro. Quindi detto questo, per riuscire a passare anche un po' di tempo con Giorgio spero di riuscire a seguirlo un pochino anche in questa sua... Ti diverte fare la First Lady Lombarda? Mi inorgoglisce molto e sì, anche mi diverte perché sono molto fiera di Giorgio. Grazie Cristina, in bocca al lupo allora per la tua mille, domenica Maria. In e ci incontriamo sul Roma-Milano di domenica. Certamente, un bacio grandissimo. Ciao. E buona domenica a tutti. Un saluto affettuoso para nuestro amigo Pino Insegno e a todo el equipo del Voice Anatomy, ya tú sabes, de la Radio 24. Hallo Leute, liebe Grüße aus Deutschland an die ganzen Freunde von Radio 24, Pino Insegno, und an alle die Leute, die in der Voice Anatomy arbeiten. Tschüss. Hola, soy Francisco y desde Santiago de Chile le quiero mandar un fuerte saludo a todos mis amigos de Radio 24, en particularmente a mi amigo Pino Insegno y a toda su gente de Voice Anatomy. Mucha suerte y nos vemos pronto. Tutte le domeniche, dalle 14 alle 16, Voice Anatomy, ovviamente su Radio 24. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, continuiamo a parlare di Milano, di occupazione femminile che proprio in questa città tocca livelli record rispetto ad altre città italiane, continuiamo a parlare delle partite che sono tuttora aperte e soprattutto dell'assegnazione dell'Agenzia Europea del Farmaco, noi ci speriamo. E proprio perché Nessuna è perfetta, ogni domenica parla di lavoro visto con un'angolazione molto specifica che è quella del lavoro, della professionalità femminile, continuiamo a farlo con una donna che in questo momento ha un po' le redini della città, le chiavi della città di Milano. Benvenuta, buona domenica alla direttrice o direttore generale, come preferisce essere chiamata, la dottoressa Rabella Caporello, prima city manager del comune di Milano. Buona domenica a lei e agli ascoltatori. Questo è stato un anno fondamentale per la città e in questo momento si sta giocando una partita veramente delicatissima che è quella per aggiudicarsi l'Agenzia del Farmaco Europeo. Come sta andando? Devo dire che il lavoro di squadra fatto dalla città, dalla regione, dal governo e tutte le associazioni interessate è stato incredibile, forse uno dei primi esempi virtuosi di come si riesce a fare il sistema quando c'è un obiettivo anche raggiungibile, concreto e ambizioso, per cui per EMA abbiamo presentato un dossier, sono già disponibili, anche avete visto le prime valutazioni della commissione. Milano direi che è in pole position con almeno Amsterdam e Copenaghen dal punto di vista infrastrutturale, del lifestyle e di tutti i servizi che possiamo offrire a chi eventualmente verrà a vivere nella città è sicuramente allo stesso livello delle capitali nordiche che tanto per tanto tempo hanno fatto un po' hanno rappresentato il simbolo, diciamo, della sintesi di come si può vivere in una città senza perdere qualità di vita. Quindi sotto questa prospettiva devo dire grandissimo lavoro. Dottoressa Caporello, l'occupazione femminile a Milano raggiunge il 65%. Cosa sta facendo il comune per promuovere ancora di più l'identità di una città aperta al lavoro delle donne? Diciamo che iniziamo con essere una delle città o tra le città che in Italia offrono più, diciamo, servizi per l'infanzia, e quindi, come dire, fanno sì che le scelte personali di maternità non influiscano sulla carriera. Quindi da questo punto di vista continuare a sostenere il nostro livello di servizi è sicuramente cruciale. Credo che Milano però giochi anche una partita culturale, nel senso che chi viene qui non necessariamente da milanese viene qui perché è attratto da un concetto di opportunità e di apertura che la città dimostra quotidianamente sul tema del merito, e quindi credo che questo sia l'elemento distintivo della città anche per il lavoro femminile e per le carriere femminili, che ogni tanto scontano qualche ingiustizia appunto di vista del merito. Lei per esempio è arrivata a Milano nel 91 dalle Marche e ha scelto Milano come città per viverci, per restarci. Sicuramente sì, quelle erano le mie motivazioni. È una città aperta, veloce, di opportunità, dove contava e credo conti quello che sai fare, e quindi è stata fondamentalmente la mia seconda casa. Io ho scelto di rimanere qui. Grazie alla dottoressa Arabella Caporello, direttore generale di Palazzo Marino, cioè City Manager, prima donna City Manager di Milano. Buona domenica. Sì, arrivederci. E di Milano continuiamo a parlare con Marco Simoni, consigliere economico internazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che su Milano è impegnato non soltanto sul fronte dell'agenzia del farmaco, ma anche per esempio su Human Technopole. Giusto, io, diciamo, per una serie, occupandomi tra le altre cose di attrazione investimenti dall'estero e di tutte le politiche che possono favorirli, in questi anni mi sono occupato molto di tante partite geograficamente milanesi, a partire dai ragionamenti per il post Expo, quindi l'utilizzo e la promozione di quel grande sito che ha ospitato l'esposizione universale nel 2015, e poi il progetto di Human Technopole, che sarà il cuore di quell'area, e anche la candidatura ad EMA. Ecco, noi siamo molto interessati anche ai riflessi che le nuove iniziative in programma su Milano potranno avere sull'occupazione femminile. Milano ha già superato il 60% del dato, diciamo, europeo, il 60% dell'occupazione femminile, ma per esempio uno immagina che in un futuro di sviluppo e espansione di Human Technopole possa assorbire competenze scientifiche e manageriali in molti casi costituite da competenze femminili, è così? Non c'è dubbio su questo. Il progetto Human Technopole è quello di una grande infrastruttura di ricerca cosiddetta, quindi un centro di ricerca dove a regime ci saranno oltre 1500 ricercatori più il personale di supporto nei campi più di frontiera della ricerca in questo periodo, quindi life science, genomica, oncologia, big data, cose di cui si parla tanto e che hanno bisogno di alcuni centri di gravità. Quindi Human Technopole, che sarà appunto nell'area dove si è svolto l'Expo, sarà un centro di gravità per tutta l'Europa, non soltanto per l'Italia. E quando dovrebbe partire? Quando dovrebbe essere, diciamo, in azione? Ci sono i lavori in corso in questo momento a Palazzo Italia e si sta facendo una ristrutturazione dell'edificio per renderlo compatibile con un centro di ricerca, e i primi scienziati saranno lì verso la fine dell'anno, al massimo i primi mesi dell'anno nuovo. È in corso il bando per la selezione del direttore di Human Technopole sarà, è un bando internazionale, hanno partecipato oltre 60 persone da tutto il mondo, il capo del, il presidente del comitato di valutazione di queste candidature è un premio Nobel per l'economia, per la medicina, e quindi gli scienziati iniziano a lavorare alla fine dell'anno. E quindi questa è una notizia anche per tutte le giovani che sono attratte dal mondo della ricerca. Guardate, in futuro ci sarà un polo molto importante in Italia, a Milano. Beh, non è però in futuro, se posso, in questo momento uno dei 7 centri, che è un centro che Human Technopole fa in collaborazione con il Politecnico di Milano, stanno per uscire, e saranno sui siti internet di riferimento, dei bandi per postdoc nel campo dell'analisi dei dati, quindi è già una realtà. Quindi questo potrebbe interessare quali laureati, quali dottorandi, di quali discipline? Questa particolare bando sono per dottorati, quindi persone che hanno già compiuto il dottorato, sono dei postdoc in materia di ingegneristica, informatica, scienza delle decisioni, ed è il centro che è già partito, perché siccome in collaborazione con il Politecnico, nel frattempo che si stanno facendo i lavori di ristrutturazione, possono stare fisicamente in un altro posto per qualche mese, diciamo. Certo. Senta, dottor Simoni, guardiamo con occhio realistico alla possibilità che l'Agenzia Europea del Farmaco arrivi a Milano. Diciamo che Milano si è già inserita nella lista delle città candidabili insieme ad Amsterdam, Barcellona, Vienna e Copenaghen. I criteri di valutazione sono 6. La rapidità con la quale la nuova sede è operativa, e qui ci siamo perché andrebbero a stare al Pirellone, l'accessibilità, le scuole per i figli dei dipendenti che devono essere internazionali, e poi quali altre? Ma l'altra, c'è una variabile importante, che è quella della qualità della vita, perché EMA non è un'agenzia come tutte le altre, è un'agenzia che fa un lavoro molto complesso di coordinamento di migliaia di scienziati, e quindi è importante per la salute pubblica degli europei, certo, e per l'industria farmaceutica che ci sia quella che si chiama la business continuity, che non si fermi mai EMA di lavorare. Per non fermarsi, i dipendenti devono potersi trasferire felicemente, se contenti di andare a vivere in una nuova città, oppure si troveranno un altro lavoro. Sono dipendenti dall'altissima professionalità. Sono scienziati, per lo più. Sono, diciamo, degli esperti legali, giuristi ed esperti di farmaci. È una cosa molto specifica, i criteri per i quali i farmaci possono essere ammessi o no. Non sono dei laboratori, è più tecnico. È molto, molto complesso. Sono persone molto richieste anche dal mercato. Quindi sono persone che, come dire, un altro lavoro se lo possono trovare, non dico facilmente, ma insomma neanche tanto difficilmente. Ed è importante quindi che la città sia un luogo che li possa accogliere bene, e Milano su questo oserei dire che non ha rivali, diciamo. E questo è un altro elemento importante. Purtroppo la decisione finale non sarà una decisione soltanto tecnica, altrimenti, come ha detto lei giustamente, la scelta sarebbe in realtà tra poche città. È uscito un altro documento di EMA con ancora maggiori dettagli, e Milano è chiaramente l'unica, insieme ad Amsterdam e Vienna, ad avere tutte le caselline verdi. Mettevano le caselline verdi quando però dipende molto dal potere, no, politico. Questi sono scambi ad altissimo livello. Io ti do un'agenzia in un posto e mi prendo quest'altra, un po' come le figurine che si scambiano, faccio per dire, Merkel e Macron. Un po' sì, un po' no, nel senso che questa lettura, diciamo, di scambi ad altissimo livello è uno dei modi in cui si racconta spesso la politica europea, e a volte è efficace. In questo specifico caso è talmente particolare la natura dell'agenzia EMA che sia noi, sia la stessa industria, sia le associazioni dei pazienti stanno facendo il massimo per spiegare a tutti i leader politici quanto è importante questa agenzia e che lavoro importante svolge. Quindi io non credo che onestamente in questo piano sia possibile pensare a degli scambi, è troppo importante ed è troppo particolare il caso. Ricordiamolo, a beneficio di tutti, che è la prima volta nella storia che un'agenzia si sposta. Non si tratta di le altre volte si discuteva dove mettiamo una nuova agenzia, c'è l'agenzia non so, dell'alimentazione, è stata messa a Parma e c'è stato un negoziato, ma era una nuova cosa. Questa esiste già. Esatto, questa esiste già. Senta, dottor Simoni, in chiusura, tra le città in lista c'è anche Barcellona. Secondo lei quanto sta accadendo nella capitale catalana potrebbe essere un elemento di, come dire, vantaggio, nel senso diamo a Barcellona qualcosa che la renda ancora più vivace, legata all'Europa, oppure potrebbe essere un aspetto negativo nella decisione finale? In linea di massima, per sviluppi di tipo economico e anche diciamo di questo genere qui, le grandi turbulenze politico-sociali non aiutano. Leggevo che una grande azienda che capitalizza 60 miliardi di euro, che si occupa di genomica e che sta a Barcellona, ha annunciato di voler spostare i quartieri generali. Quindi insomma ci sono, che normalmente non aiutano. Grazie a Marco Simoni, consigliere economico internazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e buona domenica. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, l'ultima parte della trasmissione solitamente dedicata alla coach. Questa settimana vede invece un ospite che per una serie di ragioni che ora vi dirò fa un po' il ruolo della coach. Una giornalista che si è trasferita a Milano molti anni fa, quindi scegliendola come città di elezione dalla sua Venezia, e che ha avuto, oltre che la sua professione che si è sviluppata in città, anche un ruolo particolare. La moglie dell'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. Insomma, buona domenica Cinzia Sasso. Buongiorno. Milano, record di donne che lavorano, ed è sempre stata un po' la città che dava rilievo al lavoro femminile. C'era una famosa pubblicità degli anni 60 che campeggiava in Piazza Duomo con la signorina Cores, la dattilografa più conosciuta dai milanesi. Quali, secondo te, le ragioni che portano anche oggi a considerare Milano in testa all'occupazione femminile? Io credo che, vabbè, i dati lo dicono, che ovviamente Milano è in testa. C'era un obiettivo europeo che era quello che ci fosse il 60% delle donne che lavoravano, e in Italia Milano è l'unica città che l'ha anche superato. La Lombardia è la regione che, dove questo obiettivo è stato raggiunto. Io però c'è una cosa alla quale tengo moltissimo, e cioè non tanto al dato numerico quanto al dato qualitativo. Io credo che le donne che lavorano, e soprattutto le donne che riescono a raggiungere posizioni di ruoli di decisione, di comando, stiano cambiando radicalmente il lavoro e quindi la società. Questa è la cosa che a me intriga, interessa e piace molto di più. Ecco, nella tua esperienza, per tanti anni hai seguito da vicino come si stava sviluppando e stava cambiando la città. Come ti immagini che Milano possa diventare ancora più diciamo al servizio delle donne che lavorano? Abbiamo parlato di asili, di scuole a tempo pieno. Certo, se arrivasse l'Agenzia del Farmaco europea, si svilupperebbero tutta una serie di professionalità a contorno, no, dell'arrivo di 2000 famiglie straniere a Milano, in città. Che nuove professionalità servirebbero? Vorrei intanto però precisare una cosa. Secondo me è più giusto dire che cosa può fare la città, che cosa fa la città per le donne. Perché i bisogni delle donne non sono i bisogni di un pezzo di società residuale, sono i bisogni delle famiglie, sono i bisogni di tutta la società. Io quello che vedo che sta succedendo a Milano, che è una città dove i servizi sociali funzionano moltissimo e dove funzionano anche iniziative private molto fantasiose, che ne so, gli asili di condominio, oppure delle forme di lavoro ad orario non fisso, quello che si chiama smart work, di cui si sta discutendo molto, ma che a Milano in moltissime aziende funziona, e funziona sia per gli uomini che per le donne. Ecco, io quello che vedo molto in questa città, che è l'avanguardia insomma in Italia, è che c'è una molto più equa distribuzione dei carichi della vita tra gli uomini e le donne. Quindi ecco, quello che serve non serve alle donne, ma serve alle famiglie. E a Milano c'è moltissimo, ripeto, moltissimi servizi che consentono alle donne di lavorare senza che questo sia un suicidio quotidiano. In chiusura volevo fare una piccola anticipazione, perché tra gli elementi di fascinazione di una città come Milano c'è senz'altro quello di essere la capitale del Made in Italy, la città della moda, chissà che non abbia qualche influenza forse anche nel rendere ancora più appealing la città quando si dovrà decidere se l'EMA, se l'Agenzia del Farmaco andrà a Milano o ad Amsterdam o a Vienna. Sulla moda so che tu stai preparando un evento, un'iniziativa diciamo piuttosto importante. Ti ringrazio e sei la prima alla quale lo racconto pubblicamente, però sono contenta di farlo con te. Ho costruito un progetto che si realizzerà presto, alla fine di ottobre, che secondo me non riguarda tanto e solo la moda, riguarda la moda, ma riguarda il suo rapporto con la città, perché credo che la cosa bella della Milano di questi ultimi anni sia stato il fatto di essere una città che si è aperta, ha aperto qualsiasi cosa, non c'è più un mondo riservo, non so, il mondo del mobile l'ha cominciato molti anni certo, fa, aprendo tutte mobile. Le case, sì, infatti. Ecco, il modello salone è diventato un modello della città. Tutto a Milano viene vissuto, non so, non c'è più una differenza tra chi guarda e chi fa le cose, ma c'è un legame tra questi due pezzi della vita della città. E quindi niente, faremo questa cosa di cui io sono assolutamente entusiasta e felice, e cioè tutti i marchi storici della moda milanese, che poi sono i marchi del Made in Italy nel mondo, apriranno per la prima volta le loro porte, le porte degli atelier di questi luoghi iconici, segretissimi, finora molto riservati e molto chiusi, alla visita libera e gratuita della città. Io credo che sarà sarà molto divertente. Penso che ne approfitteranno i milanesi, ma anche non solo loro, perché è un'occasione davvero unica e simpatica per tutti noi, anche per chi non vive a Milano. Grazie. Naturalmente sei invitata anche tu. Non mancherò. Ti aspetto. Grazie a Cinzia Sasso e buona domenica. Grazie a voi. Buona domenica a tutti voi che ci avete seguito.